Notti d'estate mi fanno paura se non sei con me. Mi hai detto ritornerò presto, tu aspettami qui anche se il mondo crollasse in un giorno, se tutto bruciasse in un secondo, tu non sarai sola, io sarò sempre a tre passi da te. Ed è solo una notte se non stai con me. L'estate non torna se non tu li die. Perdonami a stu bagno nelle bacie. Hai fatto il passato e che hai fatto utile. Scalo montagne, poi trovo il deserto. Su lugo una barca, in mare aperto. Non piscio la fame, sconfiggo la fame. Ci messetto a mangiare, pago su lugo coperto. Notti d'estate, assunta la luna. Parcheggiati a suba la duna. E penso sempre a qualsiasi ora. Perché senza le tie me fanno paura. Notti d'estate mi fanno paura se non sei con me. Mi hai detto ritornerò presto, tu aspettami qui anche se il mondo crollasse in un giorno, se tutto bruciasse in un secondo, tu non sarai sola, io sarò sempre a tre passi da te. She says she been missing me like the sun missed the moon. Like a child tell mommy please come back soon. And when she talk like this it's like she break my rules. I feel so young in love and it return back school. This time you're gonna cry me a river, because this dance is stabbing deeper. And it's not enough when you say I miss you. Those summer days I will always remember. I don't care if life take you so far away. I feel your heart beating here again. You know that I belong to you, I know that you belong to me. Notti d'estate mi fanno paura se non sei con me. Mi hai detto ritornerò presto, tu aspettami qui anche se il mondo crollasse in un giorno, se tutto bruciasse in un secondo, tu non sarai sola, io sarò sempre a tre passi da te. Riguardo le immagini, pensando a quegli attimi, sdraiati in spiaggia aspettando l'alba insieme a te. E adesso che non sei qui, ma mille chilometri, mancarsi fa male quando rimane la voglia di te. Come un segno indelebile, quelle notti d'estate. Secondo, tu non sarai sola, io sarò sempre a tre passi da te. Fanno paura se non sei con me, se non sei con me. Se non sei con me, con me, con me, con me, notti d'estate mi fanno paura se non sei con me.